Harriet Tubman. Nel corso della storia umana è già successo che una donna riuscisse ad incarnare un coraggio straordinario che diviene invincibilità e capacità di guidare gli eserciti. Ricordiamo Boudica, la regina degli Iceni, che riuscì a riunire in un unico esercito sotto il suo comando tutte le tribù britanniche contro Roma. Ricordiamo Giovanna d'Arco, la quale poco più che adolescente si mise alla testa dell'esercito francese e lo guidò alla vittoria contro l'Inghilterra. Come scuola delle donne, non riteniamo impossibile che sia la forza della grande madre stessa a incanalarsi in donne particolarmente generose e predisposte a combattere per la libertà e la giustizia e le guidi in imprese quasi soprannaturali. Harriet Tubman ha forse anche lei, come Giovanna e Boudica, ospitato nel suo piccolo corpo l'enorme forza della grande madre per ridare libertà e giustizia alla sua gente. Araminta Ross, tale il nome di nascita di Harriet Tubman, nacque tra il 1820 e il 1825 in schiavitù nella piantagione Brodes, nella contea di Dorchester nel Maryland. Il fatto che non si conosca la data esatta della sua nascita la dice lunga sulla scarsa importanza che il padrone aveva attribuito alla piccola schiava. Harriet ebbe 8 fratelli, 3 dei quali vennero venduti. Ma quando un compratore si mostrò interessato a Moses, il più giovane dei fratelli, la madre, Ruth, decise di nasconderlo senza successo. Moses venne trovato e Ruth minacciò di spaccare la testa a chiunque avesse osato ancora separare la famiglia. Questo esempio di coraggio in una donna disarmata e senza alcun diritto civile influenzò parecchio la piccola Araminta, la quale cominciò a ritenere possibile una forma di opposizione e resistenza alla violenza della schiavitù. Assunta come domestica a 5 anni, dava già i primi segni del suo rifiuto del sistema schiavista americano del XIX secolo. Le condizioni di lavoro della bambina erano durissime. Araminta si ammalò a causa delle frustate e pestaggi per aver tentato la sua prima fuga. A 12 anni si rifiutò di aiutare un sorvegliante a punire un altro schiavo e quando questi cercò di scappare, Araminta fu colpita alla testa dal pesante oggetto che gli era stato lanciato contro per fermarlo. Da quel momento soffrirà per tutta la sua vita di convulsioni, vertigini, narcolessia ed episodi di blackout. La storia ufficiale sostiene che possa essere stata affetta da una forma di epilessia, ma come scuola delle donne ci sentiamo più in risonanza con la versione suggerita dalla regista afroamericana Casey Lemons nel suo splendido biopic dedicato a Harriet, cioè che il colpo alla testa le abbia attivato facoltà medianiche e visionarie che le consentivano di avere presagi e di prevenire i pericoli. Visioni che Araminta attribuiva a Dio, ma che la aiuterà moltissimo nelle sue missioni per far fuggire gli schiavi. Nonostante il coraggio della madre nel tentativo di tenere la famiglia unita, anche Araminta venne venduta, ma le sue condizioni di salute ne facevano un soggetto poco appetibile e venne restituita ai Brodes, potendo così riunirsi con la mamma. La famiglia decise di rivolgersi a un avvocato, il quale scoprì che alla madre era stata promessa la libertà ai 45 anni e poi le era stata negata illegalmente, dunque lei, Araminta, era teoricamente nata libera, poiché i figli prendevano lo status delle madri. Ma l'avvocato la avvisò di non voler proseguire nella richiesta di giustizia perché nessun giudice avrebbe preso il caso in considerazione. Alla morte di Brodes, la moglie iniziò a vendere gli schiavi uno dopo l'altro, avendo bisogno di denaro per saldare i debiti lasciati dal marito. Araminta comprese che la sua terribile sorte sarebbe stata quella di essere venduta nel profondo sud, dove gli schiavi morivano di fatica e privazioni. Non ebbe scelta e rapidamente decise di fuggire la notte stessa, lasciando dietro di sé il marito e la famiglia. Susan Brodes affisse un manifesto che offriva $300 a chiunque l'avesse informata sulla posizione della schiava fuggiasca. Araminta si fece insegnare da suo padre come orientarsi con la stella polare di notte per andare a nord e riuscì, con coraggio e volontà sovrumane, a fuggire agli inseguitori a cavallo, ai loro cani e fucili e a percorrere le 100 miglia di paludi che la separavano dal primo stato libero al nord, la Pennsylvania, dove arrivò lacera, ferita, stremata e digiuna da diversi giorni. Fu aiutata nella sua fuga disperata dalla Underground Railroad, che significa ferrovia sotterranea, una rete clandestina di donne e uomini ex schiavi, abolizionisti o bianchi simpatizzanti che avevano creato una serie di rifugi e itinerari sicuri lungo il percorso, formando un sistema di fuga dalla schiavitù fatto di case, trasporti e addirittura tunnel sotterranei. La Underground Railroad permetteva agli schiavi di fuggire dalle piantagioni verso gli stati del nord e il Canada o a sud verso il Messico. Araminta raggiunse Filadelfia, dove l'abolizione della schiavitù era iniziata da circa 70 anni gradualmente. Da questo momento in poi, unendosi ai volontari della Underground Railroad, Araminta Ross divenne Harriet Tubman. Una donna libera che consacrerà la sua vita alla liberazione delle schiave e degli schiavi e si guadagnerà il nome di Mosè dei Neri, che divenne anche il suo nome in codice durante le missioni. La storia ufficiale sostiene naturalmente che Harriet non avrebbe mai raggiunto la libertà se non fosse stato per la Underground Railroad, pronta a ospitare e accompagnare gli schiavi in fuga nel loro viaggio verso la libertà, un viaggio che sfidava la Fugitive Slave Law, la legge sugli schiavi fuggiaschi appena emanata. Come scuola delle donne, tuttavia, ci sentiamo di affermare che prima di tutto lei fece affidamento sul suo coraggio, dovuto alla forza della disperazione che la mosse e alla capacità di affidarsi alle sue visioni. Infatti, molti fuggiaschi, nonostante il supporto della ferrovia sotterranea, a un certo punto preferivano tornare indietro alla schiavitù e alle piantagioni. Vinti dalla paura dell'ignoto, essi si persuadevano che non sarebbero riusciti ad arrivare alla fine della fuga e che dunque, riconsegnandosi spontaneamente, avrebbero ricevuto una punizione inferiore a quella inflitta se fossero stati ricatturati dai cacciatori di schiavi. Nel 1850 la trentenne Harriet si trovava dunque a Filadelfia, ormai una donna libera, ma non in pace. Il pensiero della sua famiglia, ancora in schiavitù, non le dava tregua. Aveva attraversato la linea, ma si sentiva straniera perché la sua casa era rimasta dove era la sua famiglia. Tornò nel Maryland per liberare in diverse missioni di salvataggio sia il resto della sua famiglia ancora schiava dai Brodes, sia i fratelli venduti ad altre piantagioni con le rispettive famiglie. Venne a sapere che nel frattempo suo padre aveva comprato sua madre Ruth e che anche lui faceva parte di una rete di salvataggio. Il padre venne denunciato da uno schiavo catturato, ma poco prima di essere arrestato, Harriet tornò di nuovo al sud e lo portò via, insieme alla madre, nascosto in un carro dei bianchi, uno degli stratagemmi usati dalla Underground Railroad. Nei successivi 10 anni, Harriet condusse 19 spedizioni di salvataggio nel sud, facendo scappare circa 300 persone, senza essere mai catturata e senza mai perdere un fuggiasco. Grazie al travestimento e al nome Moses che aveva assunto e che deviava l'attenzione dei cacciatori di schiavi alla ricerca di una figura maschile come il nome, avvisando tramite canti schiave e schiavi di prepararsi alla fuga e non facendosi scrupolo di usare il revolver o il fucile se necessario. Con determinazione e astuzia, unita all'ottima conoscenza di nascondigli e percorsi affidabili, guidava le fughe verso il Canada, poiché Lincoln aveva cominciato a esitare e la caccia agli schiavi rendeva insicuri e pericolosi anche gli stati del nord. Harriet, ormai quarantenne, partecipò attivamente alla guerra di secessione, convinta che solo la vittoria dell'Unione avrebbe portato all'abolizione definitiva della schiavitù. Faceva qualunque cosa fosse necessaria a liberare la sua gente. Spia infiltrata per rubare informazioni a favore dei nordisti, esploratrice, reclutatrice di soldati, cuoca e infermiera, utilizzava le proprie conoscenze di medicina naturale per curare i soldati malati. Soprannominata generale Tubman, grazie alla sua vasta conoscenza delle paludi, Harriet fu la prima donna a guidare un'operazione militare, un'incursione di 150 soldati afroamericani nella Carolina del Sud per liberare 750 persone in schiavitù. La sua famiglia era in salvo ad Auburn, nello stato di New York, dove prima della guerra lei aveva comprato un terreno su cui era stata edificata una casa, per dare rifugio, cibo, letto e qualsiasi tipo di aiuto agli schiavi in fuga, agli indigenti e agli orfani, alle persone malate e anziane. Negli ultimi anni della sua vita era diventata anche attivista nella lotta per il diritto di voto sia dei neri che delle donne, conscia dell'assenza dalla storiografia ufficiale di informazioni riguardo la violenza inflitta alle schiave e del ruolo dimenticato delle donne nere nella ribellione allo schiavismo. Questo, fondato sulla logica capitalista, considerava la gente nera come mezzo di produzione e le donne, per sovrapprezzo, erano anche vittime di abusi sessuali moralmente accettati e istituzionalizzati come mezzo per intimidirle e terrorizzarle, fiaccando la loro volontà di resistere. Nonostante il servizio reso al paese, ad Harriet non fu concesso alcun compenso. Sebbene la schiavitù fosse stata abolita, gli ex schiavi non venivano riconosciuti da tutti come cittadini a pieno titolo, figuriamoci le donne di colore. Nella sua biografia è raccontato che dopo l'abolizione della schiavitù, durante un viaggio in treno, subì un episodio di razzismo da parte del conducente che voleva farla viaggiare nel vagone bagagli. Quando Harriet si rifiutò, venne buttata fuori dal treno senza che nessuno dei presenti intervenisse. Al termine della guerra fece richiesta al Congresso di pensione militare ufficiale, una indennità di 1.800 dollari per i decenni spesi a combattere e a rischiare la vita ogni giorno. Ma otterrà soltanto un assegno mensile di 20 dollari e non come combattente della guerra civile, ma come vedova del secondo marito veterano. A 89 anni si ritirò anche lei nella casa da lei stessa costruita ad Auburn, dove lasciò il corpo. A 91 anni. La vera storia di Harriet Tubman è stata ottimamente ricostruita dalla regista afroamericana Casey Lemons nel film Harriet. Casey ha iniziato a scrivere e dirigere film sulla gente di colore a 36 anni, contribuendo con il suo meticoloso lavoro al risveglio di quell'onda di coscienza femminina di cui anche la scuola delle donne si onora di far parte.